verità, che già vede la realtà, vecchia come un film luce, comandata da sti bianchi neri, proprio come il duce, che di professione possono fare un bocchino, proprio come Italo, ma non quello Calvino, sono quello che ora incide la sua vita come Goya, che decide di se stesse, che ride se merda in Goya, che uccide la noia, voglia dei suoi malaffari, che viva Messina a casa dei suoi genitori, non sono il venduto, pure quello che sta molto, il tipo che fa il compiaciuto, viziato come Savoia, sono quello che protesta e manifesta con il rap, e che ti fai trua proprio dentro la tua via. Ebbene sì, sono quello che chiami vandalo, perché sono l'MC che tra pochi svela lo scandalo, italiano, siciliano, messinese, cannocca, vivo da disoccupato perché lo Stato mi blocca. Il mio nome non importa, tanto tu non lo ricordi, porta la mia essenza senza stare come i sordi, chiamami J-Biz, voglio Kiss, Caramis, sono quello che ora snobbi, che vive sui bordi. Il mio nome non importa, tanto tu non lo ricordi, porta la mia stella senza stare come i sordi, chiamami J-Biz, voglio Kiss, Caramis, sono quello che ora snobbi, che vive sui bordi. Tu non mi conosci ma capisci come suono, sono io un mediterraneo come Diego Abbatantuono, per alcuni un accattone che non c'ha una professione, ma che non fa il generoso con i soldi degli altri, è già la mia mansione spingere la mia passione senza raccomandazione, sputarli in faccia agli scaltri. Non scrivo canzoni smielate alla Carla Bruni solo per farmi milioni come film di George Clooney. Vivo in Italia dove ci governa il male, dove quello che più conta ha frequentato grandi scuole, vuole avere il primo posto promosso ma senza impegno, qui non conta più l'ingegno e neanche lo sdegno che sale. Non sono opportunista, non mi porto il capo a letto per ricoprire un ruolo sul suolo, avere uno scelto, non ho fatto il chirichetto dentro la tua chiesa, credo che ogni religione abbia un senso ma senza offesa, chi ci specula e vuole il bene per la propria resa e si ricopre d'oro rendendo l'umiltà lesa. E a parte questo io non sono il tipo ricco né il politico di spicco che vuole calarti pacco, io non sono il testimone che